Il Comitato per la diffusione delle opere del dottor Luigi Gaspari ricorda che il file audio in ascolto costituisce materiale sottoposto alla normativa vigente sul diritto d'autore. Il file non può essere né modificato né commercializzato. Può invece essere condiviso, ma solo citando la fonte e l'autore. Conferenza del dottor Luigi Gaspari, tenuta a Pompei il 30 ottobre 1988. Grazie a tutti per essere venuti a portare a me e alla Madonna di Pompei la gioia della vostra presenza, perché quando ci si unisce nell'amore del Signore e di Maria, le grazie sono abbondanti, sia per me che per voi. Unirsi fra noi è vivere nella comunione dei santi, e la comunione dei santi è il credo più importante della nostra Chiesa Cattolica, perché nella comunione noi ritroviamo la nostra origine, che è origine divina. Nella separazione, invece, noi troviamo il ricordo luciferico del tradimento dell'uomo verso Dio. L'uomo, Adamo, tradì Dio proprio perché non aveva ancora compreso la comunione dei santi. Nella comunione dei santi, infatti, è impossibile dannarsi, perché nella comunione dei santi è lo Spirito Santo che circola fra di noi e ci unisce in un solo corpo. Quando noi ci sentiamo attratti ad ascoltarci gli uni con gli altri, a confidarci le nostre esperienze, non facciamo altro che mettere in moto la comunione dei santi, cioè lo Spirito Santo è in mezzo a noi. E io credo che tutti voi siete venuti qui per uno slancio d'amore verso la Madonna, prima di tutto, per Gesù e per Padre Pio, del quale io sono un più o meno indegno figlio spirituale. Perciò, tutti qui uniti, dobbiamo credere che in mezzo a noi è presente lo Spirito di Dio, di Gesù, di Maria e di Padre Pio. Udirlo non è difficile se noi pensiamo e meditiamo a quanto Gesù ha fatto per essere sempre vivo in mezzo a noi. Egli ci ha donato la comunione eucaristica, ma non solo eucaristica, ma ci ha donato la comunione del Verbo, dello Spirito, della sua parola. Ogni volta che noi ricordiamo e viviamo uniti in amore alla parola di Gesù, non facciamo altro che comunicarci con Gesù stesso, invisibilmente ma tangibilmente, perché la parola di Dio ci comunica la grazia, la gioia, l'amore alla vita. Amare la vita oggi è difficile, specialmente per coloro che non hanno compreso o non hanno meditato abbastanza sulla reale presenza di Dio in mezzo a noi, col suo Verbo divino, col suo Spirito Santo. Se noi poniamo attenzione alle miserie di questo mondo, è facile comprendere l'urgenza di ritornare all'amore, alla verità e alla parola di Dio, unica capace di ridarci un senso a questa vita, amore alla vita, amore al nostro prossimo e al creato. Infatti, tutto crolla, tutto perde di valore in questo mondo quando noi non conosciamo l'importanza della parola di Dio, che è stata, è e sarà sempre la parola creatrice di tutto e di tutti i beni. Il Vangelo di Giovanni ci rivela che in principio era il Verbo, cioè la parola e lo Spirito di Dio che aleggiava sulle acque, e per mezzo del Verbo, per mezzo della parola, tutto questo immenso creato è stato fatto. L'uomo però non ha potuto mantenere in vita questo spirito della parola di Dio, e perciò molto è stato distrutto. E molto però è possibile ricostruire se noi restiamo in questa comunione del Verbo fino al punto di divenire noi stessi parola di Dio vivente. Perché lo scopo di questa vita è proprio questo: riportare sulla terra la parola di Dio viva, che è capace di costruire un mondo somigliante al paradiso terrestre. Il paradiso è la creazione della parola di Dio, e ogni volta che noi viviamo in unione, in comunione con la parola di Dio, diventiamo capaci di costruire piccoli paradisi sulla terra, capaci di diventare un grande paradiso quando ci saranno tanti apostoli di buona volontà, capaci di portare in tutta la terra questo seme che Gesù è venuto a portare e che noi dobbiamo continuare a fare prosperare, a fare crescere per il bene di tutti e dell'umanità che oggi soffre appunto per questa mancanza di amore alla parola di Dio. Cosa significa amare la parola di Dio? Cercheremo di vederlo insieme, perché non basta pregare, essere ferventi religiosi, però bisogna anche capire il significato dei nostri atti. E oggi è necessario appunto che molti di voi diventino apostoli di questa parola, appunto per fare comprendere a tutti gli uomini di buona volontà quanto può la parola di Dio. Noi sappiamo attraverso la storia della Chiesa che tanti uomini sono stati profeti, sono stati capaci di miracoli, di grandi prodigi, ma tutto questo grande possibilità che hanno avuto questi uomini non è un'esclusiva di pochi, è una possibilità di tutti, allorquando tutti avranno capito, si saranno resi coscienti della potenza della parola di Dio. Quando la parola di Dio entra in noi, noi diventiamo vita di questa parola. Se noi diventiamo vita, è segno che possiamo trasmettere la vita, e la nostra vita si diffonderà intorno a noi, fino a fare risorgere tutti coloro che non conoscono la vita, ma che sono morti alla vita, anche se camminano e parlano. Perché camminare, parlare, mangiare, dormire, non è vita se non è un risveglio nell'amore alla parola di Dio. L'amore alla parola di Dio dà veramente la possibilità all'uomo di pregustare il paradiso su questa terra. Perché il paradiso non è altro che un risveglio. Questo risveglio possiamo averlo fin d'ora. Dipende da noi. Dipende da noi essere attenti e non addormentati. Addormentati significa non riconoscere, non comprendere che ognuno di noi ha delle infinite possibilità. Noi leggiamo la vita dei santi, ammiriamo tutto quello che hanno fatto, ma lo dobbiamo fare non tanto perché questi debbano essere riconosciuti come esseri particolari e unici. No, sono il prototipo di un'umanità vera, la più vera, e l'umanità nuova che deve diventare il mondo intero. Perché senza questa riscoperta del valore della parola, accompagnata dall'amore di Dio, la vita diventa un inferno. E stiamo vedendo che già in certi settori lo è. Lo è perché vediamo, per esempio, i figli sempre insoddisfatti, mai contenti di niente, anche se hanno ricevuto tutte le grazie, tutti i doni più grandi in beni materiali e anche spirituali. Per poter apprezzare tutti i doni della vita, tutto ciò che il Signore ci ha offerto, è urgente che noi ritorniamo allo studio, alla conoscenza, all'amore, alla parola di Dio. Perché quando la parola di Dio entra in noi è finita la tristezza e ogni nostra tristezza viene mutata in letizia, così come dice il Vangelo. Perché quando il bambino è nata la gioia, dice Gesù. E questa gioia che cos'è? Il bambino che cosa è? È la parola di Dio che ritorna in noi e che ci fa e che fa di ognuno di noi novelli Cristi, creatori di beni, di gioia, di pace e di ricchezze. Ora tutte le miserie che stanno intorno a noi sono miserie dovute all'assenza della viva parola di Dio nel nostro cuore. Ecco perché Dio ha mandato tanti santi in questi 2000 anni. Questi santi sono stati degli esseri che hanno dovuto sacrificarsi in modo particolare, offrirsi vittime al fine di trasmettere la vita ai cadaveri che erano gli uomini privi della parola di Dio. Quando l'uomo è privo della parola di Dio, la sua vita è un continuo morire, è una morte lenta fino alla morte completa del corpo. E questa morte non ha resurrezione, perché la resurrezione è vita della parola di Dio. Quando noi concentriamo il nostro pensiero su questa verità, ci accorgiamo che niente ci fa paura, perché tutto quello che abbiamo distrutto lo possiamo ricostruire. Vediamo nei secoli l'oscuro Medioevo, però così ricco di santi, di esseri particolari, che sono stati capaci, dopo la caduta dell'Impero Romano, di ridare vita all'umanità decaduta anche civilmente. Tutto è dovuto alla parola di Dio. Oggi questa decadenza è arrivata in tutte le case, dove non c'è questo amore, questa comprensione della verità della parola creatrice di Dio. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere un grande santo che era Padre Pio da Pietralcina. Questo uomo che è riuscito, attraverso l'amore alla parola di Dio, nient'altro, a farsi conoscere e amare da tutti gli uomini del mondo, di tutte le religioni, non solo cattolica, ma anche musulmane, buddiste. Io ho conosciuto uomini di tutti i continenti che erano innamorati addirittura di Padre Pio. Perché erano innamorati di Padre Pio, di quello che Padre Pio diceva? Perché Padre Pio coltivava nel suo cuore l'amore alla parola di Dio. Tutto qui. Questo amore di Padre Pio per la parola del Vangelo, nella Santa Messa, ha fatto sì che Padre Pio stesso diventasse una potenza, quasi un Dio in terra, ma non un Dio perché fosse diverso da noi, cioè perché Dio viveva in lui con la potenza della sua parola. Ma se noi comprendiamo questa potenza, questa verità, noi stessi possiamo diventare come Padre Pio e anche di più, perché la parola di Dio è una potenza che non ha limiti, non è finita, tende all'infinito. Perciò quello che un santo ha fatto può essere superato anche da noi. Da noi stessi, perché nella parola è l'infinito di Dio che si manifesta e che vuole conquistare l'umanità intera. Ecco il messaggio che ci ha lasciato Padre Pio, principalmente quello di aiutarci a capire l'importanza di vivere e di amare la parola di Dio, di mangiarla, di digerirla, perché mangiando la parola di Dio nell'Eucaristia e nelle parole del Vangelo significa incarnare lo spirito del Verbo creatore di tutti i beni, di tutte le ricchezze, di tutte le gioie. Padre Pio non era un pessimista, Padre Pio era realista, vedeva la tragedia umana, soprattutto in questa indifferenza verso la conoscenza e il possesso ed amore alla viva parola di Dio, che tutto può risolvere, tutto può medicare, tutto può ricostruire. Padre Pio vedeva la distruzione del mondo attraverso parole sataniche, attraverso spiriti che non sono spirito della parola di Dio. ma era anche convinto che pochi uomini in possesso e identificati con questo spirito di amore di Dio avrebbero potuto ricostruire tutto quello che in questi ultimi anni specialmente è stato distrutto. Io sono venuto qui perché sento la responsabilità di dirvi quello che Padre Pio con urgenza ha detto a me e che dice oggi a tutti voi attraverso la mia parola. Quello che Padre Pio vuole dirvi è questo: fate presto a ristudiare, a diventare vita della parola di Dio e vedrete piano piano che i vostri problemi non esistono più. Esisterà solo un problema ancora, quello di fare conoscere agli altri quello che voi avrete capito, avete acquisito. Se voi acquisirete questo stato conscio dell'urgente necessità di vivere e di mangiare la parola di Dio, in voi non ci sarà più nessun timore, ma ci sarà solo l'ardore di volere conquistare i fratelli all'amore e alla conoscenza di Dio. Ecco il problema unico dell'umanità oggi. Questa umanità che sembra a volte distrutta, ma che in realtà è solo in attesa di una vita nuova che è già stata donata da Dio. E solo mancano gli apostoli capaci di far conoscere questa ricchezza che ci è stata portata anche attraverso il profeta Padre Pio. Questa ricchezza è a portata di mano. Si tratta solo di credere e di volere accettare, così come Giovanni nell'Apocalisse vide un libretto che non poteva scrivere in quel momento perché non era ancora giunto il tempo, ma poi Giovanni mangiò questo libro e divenne vita di questa parola d'amore di Dio fino ai tempi nostri, quando questo libro è stato trascritto ancora per poter essere digerito e mangiato e fare che ognuno di voi diventi apostolo del regno di Dio. Questo libretto è la rivelazione finale dell'amore di Dio che si è donato per salvare l'uomo decaduto ai livelli infernali. Ma Gesù aveva promesso che sarebbe stato rimasto con noi fino alla fine dei secoli. Come sarebbe rimasto in mezzo a noi? Gesù sarebbe rimasto in mezzo a noi attraverso la sua parola, perché quando io ho la parola di Dio in me, io sono in comunione, vivo la vita di Cristo. Quindi noi abbiamo la possibilità di essere tutti dei Cristi, tutti apostoli della parola e della verità e dell'amore di Dio. Questa verità è stata trascritta ancora in maniera ancora più semplice in un piccolo libretto, Quaderno dell'amore, che Padre Pio volle donare all'umanità attraverso i suoi 50 anni di sacrificio, proprio per dare la possibilità a tutti di capire in un unico modo che cosa è la potenza del Vangelo. Il Vangelo contiene, nasconde tutto l'infinito amore di Dio per gli uomini, ma siccome il Vangelo è anche parabola, si può prestare a varie interpretazioni. E allora Gesù ha riservato per gli ultimi tempi la rivelazione della pienezza del suo amore, che tutto perdona e tutto ci dona a patto che noi viviamo e mangiamo la sua parola come mangiamo l'Eucaristia. Perché mangiare l'Eucaristia significa mangiare la parola di Dio e essere vita della parola di Dio. Quando questo miracolo è compiuto intorno a noi, ecco che il mondo cambia, che tutto diventa bello, anche quello che abbiamo trasformato in brutto. Questa tristezza che uccide specialmente la gioventù mai soddisfatta sparirà non appena entrerà questo spirito nuovo, questo amore nuovo alla parola, questo amore che diventa comunione perfetta con la volontà di Dio, perché nell'amore alla parola c'è il segreto della volontà, la volontà di Dio che tutto può, che tutto ci vuole donare. E come si dona a noi questa volontà di Dio? Si dona semplicemente con l'amore. Noi dobbiamo amare tutto ciò che Dio ha detto, tutto ciò che Dio vuole. Allora noi stessi diventeremo volontà di Dio vivente e nessuno più, nessun demone ci potrà più tormentare. Il demonio è una realtà. che tutti tocchiamo con mano, perché vediamo i nostri figli a volte adombrati senza ragione, scontenti perché uno spirito del male è entrato in loro. Come possiamo liberare questi figli? Continuamente con esorcismi, benedizioni. Vediamo che queste pratiche hanno una loro efficacia, però non hanno una durata nel tempo, se in questo spirito non entra uno spirito nuovo. Cioè, nel nostro figlio deve entrare lo spirito della parola di Dio. E allora, attraverso questo spirito, il demonio non ha più potere. Il demonio teme unicamente l'amore di Dio, perché lui è spirito di odio, spirito di vendetta, e dove c'è l'amore non può entrare. Mentre invece il demonio può entrare laddove c'è lo spirito del giudizio, perché ecco la rivelazione finale di Gesù nell'Apocalisse attraverso il libretto di Giovanni. La rivelazione è questa, che il demonio possiamo vincerlo noi singolarmente, anche senza bisogno di grandi esorcisti. Lo possiamo vincere tutte le volte che ci identifichiamo con le parole d'amore di Dio. Le parole d'amore di Dio sono l'arma invincibile per distruggere le infestazioni diaboliche. E ora siamo verso il terzo millennio, ed è proprio il millennio nel quale deve iniziare questa vittoria sul maligno, la vittoria dell'uomo, la vittoria del bene sul male. E questa vittoria sarà sicura, perché Padre Pio me lo ha garantito. Nonostante le apparenze, se noi facciamo presto a prendere come scudo questo amore di Dio, questa parola di Dio ricca d'amore, non dovremo più avere alcun timore, perché avremo a fianco di noi l'onnipotenza di Dio, e soprattutto il demonio perderà il potere di giudicare, perché fino ad ora il potere di giudicare è stato nelle mani di Satana. Se voi leggete l'Apocalisse vi accorgerete che il demonio è l'accusatore, che deve essere vinto. E noi però, se vogliamo vincere insieme a Gesù la battaglia contro il maligno, dobbiamo prendere l'amore, conquistare i nostri fratelli con l'amore senza più il giudizio. Allontanando il giudizio, allontaniamo il demonio e noi stessi non saremo più giudicati da nessuno spirito maligno. Ecco qual è il vero programma che dobbiamo attuare senza più perdere tempo, perché tempo ne abbiamo perso anche troppo, e perdendo tempo non si fa altro che fare vittime tante persone, tanti giovani che, non conoscendo la verità, la cercano dove non possono trovarla, e allora si confondono, vanno fuori strada e quindi nelle mani del maligno. La via è la più semplice del mondo, perché quando si pensa alla salvezza spesso si complicano le cose, perché subentrano i giudizi umani, ma il giudizio di Dio non esiste, perché Dio è amore e non ci giudica. Noi dobbiamo fare molto presto, questo sì, perché Gesù in vari modi si è manifestato in questi anni insieme alla sua Madre Celeste, la Madonna, facendoci urgenza, tutti questi messaggi più o meno autentici, però molti sono autentici, non ci dicono altro di fare presto. Ma fare presto a fare che cosa? Noi non possiamo certamente cambiare la vita, apparentemente. Fare presto a mutare il nostro atteggiamento nei riguardi del prossimo e di Dio, perché noi non possiamo fare nient'altro. Quando ci dicono di fare presto, si tratta solamente di cambiare modo di pensare e modo di vedere la vita e il prossimo. Cambiare significa diventare amore vivente. Non generare mai pensieri che non siano d'amore, perché ogni pensiero che non è d'amore crea un male. Un male che prima o poi o noi o il nostro prossimo deve pagare. Perché i pensieri sono cose, e ogni pensiero è capace di trasformare la vita di un uomo in un paradiso o in un inferno. Noi ci accorgiamo quando incontriamo una persona che non ci guarda con amore, proviamo un disagio. Ma questo disagio che cos'è? È una presenza di spiriti che ci circonda e che ci toglie la gioia di vivere. Perciò noi dobbiamo assolutamente usare il nostro pensiero, che è la nostra vera forza, per circondare noi stessi e il nostro prossimo di spiriti di amore che possano risanare anche dalle malattie del corpo. Quindi la nostra responsabilità è grande. Padre Pio ci diceva che veramente noi saremo giudicati per ogni pensiero e per ogni parola, perché sono i nostri pensieri, sono le nostre parole che mutano il mondo in un paradiso o in un inferno. Ma tutto questo, quando noi andiamo in chiesa, dobbiamo pensarlo e rifletterlo, non andare in chiesa con l'angoscia di chiedere una grazia, di chiedere una liberazione da qualche cosa. Prima di tutto dobbiamo liberarci con la nostra volontà dalle nostre stesse schiavitù di pensieri e di parole. Una volta che abbiamo fatto questo, la comunione con Dio è piena, e questa comunione è già una preghiera. Se noi fossimo capaci di mantenere il nostro pensiero e la nostra parola liberi da giudizi e da pregiudizi, noi saremmo continuamente in preghiera, anche senza pregare, perché la preghiera è comunione di amore, di gioia, di pace, di felicità. Quando invece nel nostro pensiero esiste la tristezza, la noia, l'invidia, anche se preghiamo, la nostra preghiera non giunge a Dio, ma si ferma all'altezza delle nostre passioni. Se siamo invidiosi, l'invidia blocca la nostra preghiera. Se siamo lussuriosi, la lussuria blocca la nostra preghiera, eccetera, eccetera. Quindi noi dobbiamo, prima di pregare, iniziare questa meditazione della liberazione del nostro pensiero da tutto ciò che non è vivo, che non è buono, che non è gradito a Dio e al prossimo. Ora, Padre Pio era un grande maestro di spiritualità, e molto spesso, quando ci si confessava, si chiedeva un consiglio, insisteva soprattutto, almeno con me, penso anche con gli altri, più quasi sui pensieri che non sulle azioni, perché le azioni sono conseguenza di un pensiero, e se noi pensiamo male, le azioni non possono essere altro che malefiche. Quindi curare il pensiero è curare l'azione. Vediamo che quando poi i pensieri negativi raggiungono un'intensità troppo forte, ecco che abbiamo l'alienazione, la follia e anche purtroppo il delitto. È proprio coltivando i cattivi pensieri che giungiamo a questo stato. Poi un'altra cosa importante che Padre Pio ci ha insegnato e che penso che sia utile molto a voi è quella del discernimento. Imparare a discernere quando un uomo parla per bocca di Dio o per bocca del maligno. Infatti la Bibbia ci dice non valutare un uomo prima che abbia aperto bocca, prima che abbia parlato. Perché dalle parole si capisce quale spirito anima una persona, se è lo spirito di Dio o lo spirito di Satana. Ora, quanti giovani vengono confusi da persone maligne che vogliono attirarli nella loro scia attraverso parole. Mancando il discernimento si finisce spesso per ritenere di Dio quello che è di Satana e viceversa. E questa è la grande confusione di questa epoca in cui pullano apparentemente veggenti, santoni, tutte queste cose che sono più o meno autentiche, più o meno vere, e allora bisogna imparare a essere prudenti. Essere prudenti significa valutare quello che uno dice e valutare l'effetto che ha la parola di quella persona. Se produce del bene, certamente viene da Dio. Se produce del male, non può venire da Dio. Ora, il mondo è pieno di questi falsi profeti. Falsi profeti che sono strumenti di Satana per allontanare l'avvento del regno di Dio e la felicità dell'uomo sulla terra. Ora, sembra molto difficile questo discernimento, ma in realtà non lo è, perché il demonio riesce a fare credere difficili le cose semplici, e viceversa. Ora, la massima semplicità, con la massima semplicità si può riconoscere se in un certo gruppo di preghiera c'è Dio o c'è qualche altro spirito. Quando c'è Dio non c'è mai la malignità, non c'è mai il giudizio, non c'è mai la prevenzione contro un fratello. Quando si giudica, quando si fanno critiche, quando si dicono cattiverie anche di una persona che veramente può essere in colpa, ma non sta a noi a giudicare, possiamo essere sicuri che lì non c'è Dio. Ma purtroppo i cristiani oggi spesso sono superficiali, non valutano le parole e si attengono al giudizio dei più maligni. Quindi voi dovete, se volete seguire la strada celere per arrivare al possesso del Regno di Dio, evitare tutte le persone che non hanno la benignità nella parola. Quando una persona è maligna, anche se dice la verità intorno a un difetto di un fratello, quello non parla mai per bocca di Dio, ma sempre per bocca del diavolo. Quindi tenetevi lontani, va di più, me lo raccomandava sempre, di stare lontani dalle persone maligne, anche se queste vanno in chiesa tutti i giorni, perché andare in chiesa non significa essere santi. Più spesso ci si va per coprire le nostre debolezze, per fingere di essere. Bisogna stare molto, molto attenti, specialmente in questo tempo in cui pullulano questi falsi profeti che annunciano catastrofi, annunciano, mettono della paura. Non bisogna spaventare, ammonire l'uomo affinché si mantenga nella retta via, ma non spaventare, perché lo spavento, la paura è opera di Satana. L'uomo di Dio è coraggioso, come lo era Padre Pio. Padre Pio era un uomo pieno di buon umore, anche dietro questa scorza apparentemente severa, ma in realtà egli urlava e unicamente per allontanare uno spirito maligno che stava nascosto nel cuore di un uomo. Ma poi nel suo cuore c'era sempre la fiducia, la speranza, la gioia e l'amore. Non è così dei falsi profeti. I falsi profeti incutono timore, paura di Dio. E la paura di Dio è opera di Satana, non è di Dio. E Dio è amore, è gioia, è pace. Quando voi vicino a una persona provate questi sentimenti, state tranquilli che lì c'è Dio. Un altro insegnamento importante di Padre Pio, quando si parlava di una scelta nel matrimonio, per esempio, Padre Pio raccomandava, io stesso non capivo bene il perché, che la ragazza dovesse essere modesta, religiosa, avere dei buoni principi, perché diceva, se un uomo sposa una donna che non ha principi sani, questi principi poi questi principi malsani si trasmettono ai figli e la famiglia sarà segnata in senso negativo e quindi non sappiamo se poi i genitori avranno la forza di sopportare quella croce. Ma spesso quella croce ce la siamo procurata noi perché abbiamo fatto una scelta secondo i capricci dei sensi in quel momento, ma i sensi sono ingannatori perché ci fanno passare per felicità quello che è un piacere temporaneo. Ma il piacere non soddisfa a lungo. Al piacere subentra poi la nausea, subentra la realtà. E la realtà, quando non c'è la comunione con l'amore di Dio, è questa. Delle famiglie che vediamo oggi, dove i figli non hanno ricevuto il seme dell'amore, il seme della pace, che soprattutto le donne devono trasmettere. Perché la donna che non ha questo seme, inevitabilmente, genera dei figli che sono più di Satana che di Dio. E poi c'è da fare tutto il lavoro a ritroso per poter eliminare queste tendenze. Ora, se uno vuole creare delle famiglie veramente sane, nella quale possa inserirsi la pace e l'amore, deve scegliere persone che abbiano già questi principi. Non dico che santi non siamo nessuno, però se crediamo nella verità del Vangelo, nella verità dell'amore, dobbiamo creare delle famiglie, così diceva Padre Pio, dove sia già questo innesto. E allora c'è speranza di portare la felicità e di mettere al mondo dei figli che veramente diventano esseri felici e creatori di bene. Perché la felicità non esiste a questo mondo. Esiste l'illusione. La felicità esiste solo per chi è in una comunione costante con lo Spirito di Dio. Perché allora questa felicità che viene dallo Spirito Santo non è più condizionata alla gioventù, al sesso e al tempo. È una felicità che ci portiamo alla tomba, perché la tomba diventa un sepolcro dove ci vive un uomo risorto. Perché la resurrezione è vivere costantemente alla presenza di Dio, credere che Dio è in noi e allora noi diventiamo immortali. l'immortalità è dono della sapienza di Dio. Quando noi amiamo la parola di Dio, diventiamo sapienti e sappiamo che la sapienza è il dono dell'immortalità. L'immortalità non è un corpo che parla, che vive, è uno spirito, è la nostra anima che vive anche dopo la morte del corpo. Il corpo non lo sentiremo più, non lo sentiremo come non sentiamo più quando ci siamo tolti un dente, ma se abbiamo la vita divina in noi, la nostra vita continua, così come continua la vita di Padre Pio, che nonostante che nel corpo sia morto, nello spirito è vivo più che mai, si è manifestato a me dopo morto più di una volta, si manifesta e si manifesta a tutto il mondo. Perché si manifesta? Perché Padre Pio non è morto, è risorto. La resurrezione, cioè quando l'uomo si chiude la vita del corpo materiale, apre alla vita del corpo immortale. E questo corpo immortale si manifesta ovunque, quando e dove vuole. E Padre Pio continua a manifestarsi, questo lo posso essere testimone io, come centinaia di migliaia di persone lo hanno visto dopo morto, lo hanno sentito e hanno sperimentato la potenza. Immediatamente appena morto Padre Pio, dopo 3 mesi, io ero in uno stato di dolore, nonostante sapessi che lui era ancora vivo, però l'abitudine a vederlo fisicamente lascia la sofferenza. E allora mi ero recato nel mese di novembre, Padre Pio era morto in gennaio, no, in settembre. In novembre sono andato ad Assisi con un amico e ho dormito in un albergo di fronte alla Porziuncola. Alla mattina alle 5 circa mi sono sentito svegliare da quella voce che era la voce di Padre Pio e ho visto una grande nebbia profumata nella mia stanza e una mano, è una mano stigmatizzata che lasciava cadere 3 gocce di sangue, dicendomi che queste gocce erano un segno dell'amore che continuava oltre la vita terrena, c'era questo amore che si era fatto sangue, il sangue di Cristo che è venuto a darci la vita, e quindi non dovevo avere timore perché sia Padre Pio che Gesù sarebbero stati sempre vicino a me. E questo sangue mi ha impressionato perché l'ho visto con i miei occhi e mi sono alzato e nel fazzoletto, in un fazzoletto che avevo in una borsa da viaggio, queste 3 gocce di sangue si sono impresse e sono rimaste lì fino a tutt'oggi, rosse, vive, sapete che il sangue diventa nero, invece per rimanere. Questo è stato un segno di amore per dimostrare anche tangibilmente che la vita non è tolta, ma è accresciuta, è divinizzata. E quindi da quel momento ho capito la realtà della risurrezione dell'uomo che non muore ma risorge a vita divina. Ora, con queste certezze, la nostra vita che senso ha? Quando noi siamo certi di risorgere e di vivere una vita divina, che senso ha se noi viviamo senza preoccuparci di aiutare quelli che ancora non l'hanno capito? Ecco che allora la gioia più grande non è quella di divertirci o di goderci la vita in un modo stupido, ma quella di trasmettere anche ai nostri fratelli queste certezze. Perché attraverso queste certezze allora ci accorgiamo di trasmettere un piccolo paradiso che si estende a macchia d'olio intorno a noi. Io vi consiglio di meditare quello che vi dico, perché è frutto di una vita vissuta accanto a un grande santo. E questa vita di Padre Pio, che è stata spesa appunto per aiutarci a credere in questa eternità della vita, deve essere patrimonio non mio ma vostro, perché io ho il dovere di trasmettervi il privilegio che ho ricevuto di conoscere che cosa è l'eterna vita. E quindi se voi mettete in pratica quello che Padre Pio ha detto a me e quello che io dico a voi, voi riuscirete a creare un piccolo paradiso anche in questa Napoli che ne ha tanto bisogno. Quello che vi dico è una realtà che potete toccare con mano, perché se da domani voi cominciate a diventare apostoli, a trasmettere l'amore che oggi sentirete nel vostro cuore, vedrete intorno a voi le persone che vi sembravano nemiche diventare amiche. Questo miracolo è uno dei primi che accade. Quando noi diventiamo più buoni, quando noi abbiamo l'amore nel cuore, non sembra che i nemici non esistano più, perché è la verità. Il nemico esiste quando noi abbiamo il demonio vicino. Quando si allontana Satana e entriamo nelle braccia di Dio attraverso la sua parola, ecco che il mondo ci sembra tutto un regno di Dio, anche se la realtà del male esiste. Ma noi sappiamo che questo male esiste ancora perché noi non abbiamo lavorato abbastanza per poterlo togliere. Con queste certezze la disperazione non c'è più. La disperazione si allontana fino al punto di spingerci a spendere sempre più tempo per il bene di tutti e non per l'egoistico bene nostro. Perché oggi, come ieri, le famiglie sono diventate un centro di egoismo. Infatti Gesù Cristo era stato considerato un po' nemico delle famiglie, dai nemici, ma non era così. Cristo amava la famiglia, ma non voleva che la famiglia diventasse un centro di egoismo, cioè di pensare esclusivamente al benessere materiale e anche spirituale dei nostri figli. Per poter veramente fare del bene ai nostri figli, noi dobbiamo farlo anche a coloro che non ci sono figli nella carne, ma che dobbiamo considerare figli e fratelli nello spirito. Allora veramente avremo delle famiglie capaci di rigenerare questo povero mondo. Oggi la scarsità di vocazioni, che cosa significa? Perché Dio permette che le vocazioni scarseggino, che non ci siano più sacerdoti? Leggevo sulla Famiglia Cristiana che ad Arezzo, per esempio, hanno chiuso il seminario, non c'è neanche una vocazione. Andando avanti di questo passo, si resterà con un sacerdote o due per città, sì e no. Ma tutto questo perché Dio lo permette? Perché è arrivato il tempo, diceva Padre Pio, in cui pochi sacerdoti saranno sufficienti, perché tutti noi dobbiamo diventare apostoli. Perché per portare il regno di Dio sulla terra non bastano 4 sacerdoti, occorre che ogni uomo si senta apostolo del regno di Dio. Quindi in piccolo o in grande, secondo le nostre possibilità, dobbiamo tutti lavorare per cambiare il mondo. Ecco perché che cosa è venuto a fare Padre Pio. È venuto a dire a tutti noi che dobbiamo lavorare per l'avvento del regno di Dio e della sua giustizia. Non possiamo più sperare che una Chiesa potente possa cambiare il mondo. Insieme alla Chiesa dobbiamo cambiare il mondo, ma la Chiesa da sola, cioè i sacerdoti, perché la Chiesa siamo noi. I sacerdoti sono strumenti di Dio per l'Eucaristia, per tanti altri ministeri, ma non possono da soli portare il Regno di Dio. Il Regno di Dio è nelle mani nostre, di noi laici. Questo mi ha fatto capire Padre Pio, ed è urgente che lo comprendiamo, altrimenti siamo responsabili di tutti i mali che colpiranno non solo noi, ma le nostre famiglie e i nostri cari. Le nostre famiglie soffrono perché noi non ci decidiamo a diventare dei veri apostoli. Diventare degli apostoli cosa significa? Abbandonare il lavoro, mettersi a fare, sostituire i sacerdoti? No, significa fare bene il nostro lavoro, farlo cristianamente, senza l'egoismo, senza il desiderio di primeggiare, senza volere essere gli uni superiori agli altri. Il nostro lavoro deve essere fatto con estrema umiltà, l'umiltà di volere il bene di tutti, non il bene nostro esclusivamente, come è stato finora. Anche le richieste a Dio non saranno esaudite, diceva Padre Pio, se non sono fatte per il bene comune. Io non posso chiedere a Dio dei privilegi particolari, a meno che questi privilegi mi servano per arricchire di più la mia possibilità di donarmi agli altri. Ma se chiedo a Dio delle grazie speciali solo per il mio fine personale, questo lo devo chiedere a Satana, non a Dio, perché Dio non può esaudire l'egoismo, ma può esaudire solamente un desiderio d'amore. Io posso chiedere a Dio anche una ricchezza materiale, se questa ricchezza mi serve per estendere il regno di Dio e la sua giustizia intorno a me, ma se è per i fini miei personali, è una diavoleria. E allora, se io sono esaudito, non è più Dio che mi esaudisce, ma è Satana, perché per mezzo del demonio si possono ottenere tanti prodigi che spesso vengono chiamati impropriamente miracoli. Ma se voi conoscete bene il Vangelo, il Signore, quando gli dicono: noi abbiamo fatto prodigi in nome tuo, il Signore dice: lontano da me, io non vi conosco, voi che avete commesso l'iniquità, eppure avevano fatto prodigi. Perché questi prodigi che avevano fatto erano stati prodigi solo ai fini egoistici personali, non per il regno di Dio, perché il regno di Dio è per tutti. Quindi, se noi vogliamo fare la vera giustizia, dobbiamo imparare ad amare, perché nessuna giustizia umana è possibile se noi non diventiamo amore di Dio vivente. Abbiamo visto gli uomini politici, le rivoluzioni, 2000 anni, tutti ci hanno promesso il paradiso in terra, a cominciare da Napoleone, a cominciare dalla rivoluzione francese. Tutti quanti dicevano che tutto sarebbe cambiato, il paradiso sarebbe venuto. Invece sono cambiati i padroni e l'egoismo è sempre quello. Perché? Perché l'unico modo per cambiare il mondo è cambiare il nostro cuore. Cioè, invece di diventare egoisti, diventare generosi. Amare, amare, amare. Questa è la rivoluzione permanente che dobbiamo fare. E la dobbiamo fare tutti uniti, perché è l'unica rivoluzione che ci può portare la felicità e la gioia di vivere. Le altre rivoluzioni aumentano gli egoismi personali e l'illusione di poter diventare ricchi o stare bene ai danni di un altro che sta male. Questa è stata sempre la tragedia umana, illusione di poter con rivoluzioni fare star bene una categoria a danni di un'altra. Ecco, però sembra che l'Europa e il mondo, non dico che abbia compreso, ma la delusione di queste illusioni è una realtà che si tocca con mano. Quindi, presto, presto, facciamo la rivoluzione dell'amore, perché con la rivoluzione dell'amore porteremo la giustizia che invano abbiamo cercato altrove. Oggi, davanti alla Madonna di Pompei, dopo si vi recate alla messa, chiedete questa forza alla Madonna. Non dico che dovete credere a me, credete in quello che vi suggerirà la Madonna e Gesù e Padre Pio nel vostro cuore. Certamente vi diranno di fare la rivoluzione dell'amore, perché la rivoluzione dell'amore è l'unica che porta la gioia nel cuore e che fa risorgere anche i vostri figli che apparentemente sono morti alla vita, alla gioia, alla pace. La rivoluzione dell'amore l'ha voluta Gesù e non è ancora giunta la felicità a tutti. Davanti alla nostra grande mamma Maria, la Madonna di Pompei, noi dobbiamo chiedere aiuto, perché ella è la vera madre nostra, la madre che ci toglie l'angoscia, che ci toglie il timore del giudizio, che ci toglie dalle spine che ci mette Satana nel cuore. Maria è la vincitrice di tutte le battaglie, ella è la sapienza di Dio. La sapienza, il volto della sapienza che è venuta a noi per aiutarci a ritrovare l'immortale vita di Dio nel nostro cuore. Io qui a Pompei ho avuto la più grande esperienza della mia vita, dopo la morte di mia mamma, come avrete letto nel mio libretto, e lo ripeto per alcuni di voi che non lo sanno. Quando morì mia mamma, che io avevo 30 anni, Padre Pio, per consolarmi, mi mandò a Pompei. In quel momento, aver perduto la mamma per me era come aver perso la gioia di vivere. la vita non aveva più senso, perché nella mia mamma passava la corrente di gioia e di amore che era la mia pace, la mia gioia e la mia felicità. La morte della mamma era la morte della vita. E allora io andai da Padre Pio con un animo distaccato, indifferente, senza più desiderio né di bene né di male. Il padre solo mi disse: vai a Pompei. E io partii, arrivai a Napoli, era il 13 giugno del 56, e insieme a due colleghe farmaciste mi recai in una pensione. Alla mattina, alle 5 circa, una signora mi svegliò. Io aprii gli occhi, e una grande luce nella mia stanza, era la Madonna di Pompei, che mi diceva: vieni, vieni Pompei, io adesso sono la tua mamma, non piangere più, ti starò sempre vicino. Ora, la maternità di Maria è stata la vita mia, è stata la mia resurrezione, perché da quel momento ho capito, ho sentito che lo spirito materno di Maria, della nostra mamma eterna, non ci abbandona mai, e insieme all'amore suo ritroviamo anche l'amore della donna che ci è stata madre, in particolare l'amore della mia mamma Ida, che io ho tanto amato, l'ho ritrovato vivo nella Madonna, in questi raggi che uscivano dalle sue mani e dal suo corpo, sentivo un'irradiazione di luce, di Spirito Santo che entrava in me e che mi dava la certezza che la vita continua. E da allora non ho più pianto la mia mamma, ma l'ho sentita sempre viva insieme alla Madonna. Ecco perché sono molto felice di essere qui a Pompei, dove il ricordo di questa apparizione di Maria è sempre vivo ed è sempre potente nel ridarmi quella gioia che ha saputo darmi in un momento di disperazione. Io penso che tutti voi avrete avuto prima o poi, o avrete dalla Madonna, questo dono di sentirla la sua maternità, perché sentire la sua maternità è come passare da moritura ad eterna vita. È una vita che continua dentro di noi, attraverso questo amore, questo raggio di vita di Maria, capace di farci risorgere anche nel momento di tristezza, anche nel momento di dolore. Ecco perché io ho trovato la forza di essere qui da voi oggi, anche perché è sempre vivo in me il ricordo di questo dono immenso della maternità di Maria ricevuto 32 anni fa, proprio qui a Pompei. Ora, per coloro che ancora soffrono e che si sentono nel male, sentono la tristezza della solitudine, voi dovete aiutarli anche attraverso il libretto dell'amore, che è il libro di Giovanni, così aveva promesso Padre Pio, dell'Apocalisse. È questo libro che è capace di fare risorgere l'amore di Gesù, ma anche l'amore di Maria e la sua eterna sapienza, perché nella sapienza, dice la Bibbia, è l'eterna vita che si dona a noi. Noi diventiamo immortali quando la sapienza di Dio è diventata vita del nostro cuore, quando noi siamo nell'amore pieno di Gesù, di Maria e dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo entra in noi attraverso la sapienza di Maria. La sapienza di Maria ha portato il Figlio sulla terra. La sapienza di Maria porta al nostro cuore l'amore pieno di Gesù e dello Spirito Santo. Perciò ci dona la risurrezione. Noi diventiamo, attraverso la sapienza della Madonna, figli di Dio. La Madonna è capace ancora di rigenerare il Figlio che ha generato per l'umanità intera, di generarlo per ognuno di noi nel nostro cuore. Allora si diventa bambini, e quando siamo diventati bambini non abbiamo più timore di perdere l'eterna vita, perché l'eterna vita siamo noi. Noi siamo l'eterna vita quando Maria ha generato il figlio nel nostro cuore. Queste realtà, io ho avuto il privilegio di toccarle con mano, perché le ho vissute. Ecco perché ho dovuto spendere la mia vita per trasmetterle anche a voi, perché la mia vita non avrebbe senso se io tenessi nascoste queste verità. Per molto tempo sono stato timido e incapace di manifestarle, ma oggi, a 62 anni, sento l'urgenza di dirlo, non per vanità mia, non per farmi grande, perché queste vanità non le ho mai avute, grazie a Dio, e quindi solo esclusivamente per aiutare voi a credere, avere le certezze che io ho ricevuto. E queste certezze, diceva Padre Pio, devono andare in tutto il mondo. Io non sapevo come, non sapevo quando. Oggi però questo libretto, attraverso vie misteriose che la sapienza di Dio e di Maria hanno saputo segnare, è giunto in un piccolo paese d'Europa, il piccolo Belgio, e dal Belgio si trasmette in tutto il mondo. E io ricevo lettere entusiasti di personaggi commossi perché aspettavano questo dono, in un momento in cui sembrava che il mondo non avesse più speranza, che la Chiesa Cattolica stesse per essere distrutta dalle divisioni dei conservatori, dei progressisti. Ma le divisioni non hanno senso, perché Dio vuole il trionfo dell'amore, il primato dell'amore, come dice il Concilio. E questo primato dell'amore è tanto ben espresso in questo libretto, che è capace di fare superare tutte queste barriere che ci dividono e che ci fanno perdere un tempo prezioso. Ecco, che quindi voi, con l'aiuto della Madonna, dovete leggere questo libretto. Dovete capire l'urgenza di farlo conoscere, come l'hanno capito in Francia, in Belgio, in Spagna e un po' anche in America. E se stiamo tutti uniti nel medesimo amore, nella medesima volontà di trionfare nell'amore, la nostra vita cambierà completamente e anche le preoccupazioni materiali si dissolveranno come si dissolve la neve al sole, perché le preoccupazioni materiali non sono altro che frutto di confusione nello spirito. Quando nello spirito c'è la chiarezza, c'è l'amore e la verità, ecco che anche la materia diventa dominio dell'uomo e la materia è plasmata dall'uomo secondo la sua volontà. La materia non obbedisce, il regno animale non obbedisce perché l'uomo è confuso, è diventato un animale. Ma quando l'uomo si metterà al di sopra dell'animalità e diventerà re come è suo diritto, portato da Gesù Cristo in Giovanni, allora la regalità farà sì che noi possiamo dominare tutte le forze inferiori e tutte le necessità saranno appagate tutte le necessità che sono indispensabili per l'acquisto del regno di Dio e della sua giustizia. Io credo fermamente che questo regno di Dio non è un'illusione, è una realtà in cammino, anche in mezzo a questa confusione, perché Gesù permette che noi tocchiamo il fondo dell'insofferenza, dell'insoddisfazione, proprio per arrivare al punto di cercare la pura verità senza perdere tempo. Infatti, io sto vedendo tanti movimenti in Europa che fino a pochi mesi fa non c'erano. Non c'erano perché ancora c'erano delle illusioni. Oggi le illusioni sono sparite e allora si cerca l'essenza della verità. Infatti, secondo quello che diceva Padre Pio, un giorno questa farina del mugnaio, in una parabola, sarebbe andata in tutto il mondo e avrebbe mutato i pensieri e le parole degli uomini. La farina sarebbe questo quaderno dell'amore, perché io sono figlio di un mugnaio. E Padre Pio una volta raccontò una parabola a Vinelli, il fotografo ufficiale, che ora i figli hanno un albergo a San Giovanni Rotondo. E il vecchio Vinelli mi raccontava, insieme a diversi testimoni, che un giorno Padre Pio disse: il mondo va molto male, molto male, e sembrerebbe che tutto crollasse, però non vi preoccupate, perché qui verrà il figlio del mugnaio, lui diceva, porterà una farina che andrà a tutto il mondo, e per mezzo di questa farina inizierà il regno di Dio e la sua giustizia. Ora, se voi credete alle mie parole e mettete in pratica questa volontà di Dio di diffondere questa farina, vedrete sorgere intorno a voi i miracoli, perché i miracoli sono il dono della potenza d'amore di Dio. Oggi io sperimento con sorpresa, anche se ho avuto sempre fede nella parola di Padre Pio, sto vedendo delle cose veramente straordinarie che accadono non solo in Italia, ma in Europa intera. L'Europa che si risveglia e che scopre questa grande potenza di questo piccolo libretto, che non è opera mia, del mio volere, ma è opera della volontà di Dio, profetizzata da Giovanni nell'Apocalisse. E io vi auguro a tutti di poter comprendere, amare e vivere di questo amore che vi toglierà ogni sete, ogni fame e ogni desiderio insano, e vi porterà quella gioia che non finisce mai, ma che aumenta all'infinito, perché infinito è l'amore di Dio. Ringraziamo la Madonna di Pompei, la nostra mamma, di unirci nella comunione dei santi, perché lo scopo di queste riunioni è quello appunto di capire la comunione dei santi, perché la comunione dei santi è l'unica nostra eterna felicità. Allora diciamo a Maria la nostra preghiera di gratitudine. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E ringraziamo Padre Pio per tutto quello che ci ha dato, e per il sacrificio e per quello che ci dà ancora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E poi la preghiera allo Spirito Santo che Padre Pio recitava sempre e che è molto efficace per ottenere la comunione dei santi. O divino amore, Spirito Paraclito, credo che colui nel quale tu abiterai è reso da te domicilio del Padre e del Figlio.